Io penso che bisogna partire dalle scuole, bisogna partire dai giovani per cercare di trasmettere l'importanza di lavorare in sicurezza. Purtroppo oggi, e soprattutto diciamo in questi 2 anni qui, la ripresa forte che c'è stata di lavoro ha portato minor attenzione nei luoghi di lavoro e questo ha determinato un incremento degli infortuni. Noi come sindacato dobbiamo cercare di lavorare e lavorare insieme ai giovani, quindi con le scuole e collaborare con tutti gli enti preposti per cercare di far capire cos'è importante lavorare in sicurezza. Oggi le aziende devono capire che devono investire risorse per far sì che i propri collaboratori rimangano collaboratori, non diventino dei ricordi. E avete riflettuto anche sulla figura dell'RLS all'interno delle singole aziende? Sì, è stata creata questa figura qua, che è il rappresentante lavoratori sicurezza. Sono stati dati degli strumenti molto importanti per cercare di riuscire a lavorare e cogliere tutte quelle problematiche che ci sono, ma purtroppo oggi la ritengo ancora una figura debole. Debole perché se si mettono in campo tutti gli strumenti diventa difficile oggi anche lavorare. Quindi è necessario creare tutele anche in questo campo? Assolutamente sì, vanno create queste figure, che è la figura più importante all'interno dell'azienda, dove lui sa che ha libertà di spazio e di lavoro per mettere in campo quello che gli dice la sua figura. Cosa ci dicono i dati statistici? Il dato per me lo ritengo sempre un dato freddo nel senso che io non vorrei parlare di dati, quindi vuol dire che non ci sono infortuni. Purtroppo il dato che abbiamo qua in Emilia Romagna, ma solo se guardiamo solo sul territorio nazionale, vediamo che tutti i giorni sfogliamo il giornale dove ci sono 2 o 3 infortuni e soprattutto non sono i lavoratori più anziani che si infortunano. Sono sempre i lavoratori più giovani e anche gli apprendisti, perché non gli viene fatta la formazione adeguata per far sì di conoscere la sua attività lavorativa che svolge. Oggi si prende un giovane e si mette a lavorare come se fosse già una persona che ha 20 anni che è all'interno dell'azienda, ma non può più essere così. Quindi prevenzione non solo nel senso di prendere più misure, ma anche formazione. Formazione, cioè le aziende oggi devono investire delle risorse per fare la formazione. Noi abbiamo all'interno delle aziende 2 ore di formazione all'anno, non è niente, quindi dobbiamo metterci delle risorse. Quando dicevo prima che devono essere anche i governi che fanno investimenti, perché poi le ricadute sono comunque sul sociale, su tutti, cioè gli infortuni poi vanno a incidere sulle spese sociali, quindi dobbiamo lavorare di lì. Oggi in un paese moderno come il nostro, un paese dove industrializzato come il nostro, deve fare una cultura sulla cosa, scuola, cosa c'è da fare, tutto. Noi la ricetta ce l'abbiamo, se veniamo coinvolti noi abbiamo le ricette per evitare queste problematiche qua.